Steve a mis au point différents réservoirs. E ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberger. Buongiorno e buon Natale a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori della finestra sul cortile. Non sarà un Natale facile, per molti sarà una festa triste o in tono minore per colpa della crisi, ma di sicuro sarà un Natale fedele alle tradizioni, perché un Natale così bianco, così nevoso, non si era mai visto da tanti anni. Avete preparato il presepe, ci avete messo anche il cotone sui tetti delle case per simulare la neve? Beh, forse sarebbe il caso di levarla. E anche il bue e l'asinello potete tranquillamente lasciarli nei loro recinti, perché non fa così freddo nella capanna della Natività, anzi, forse ci vorrebbe l'aria condizionata. Secondo alcuni astronomi, infatti, Gesù non sarebbe nato a dicembre, ma a giugno. Abbiamo sbagliato per gli ultimi 2000 anni? Dobbiamo riscrivere il calendario? Sulla figura storica di Gesù si riaccende il dibattito e vale la pena di parlarne senza pregiudizi. Questo sarà uno dei temi della puntata di oggi della Finestra sul Cortile, ma intanto sentiamo cos'altro prevede il nostro sommario. Argentina, tango proibito. Nei periodi della dittatura, la censura di regime colpì anche la musica popolare. Australia, Natale al caldo. Secondo i calcoli di un astronomo australiano, Gesù sarebbe nato il 17 giugno e non il 25 dicembre come vuole la tradizione. Francia, nel 2010 una statua Moai arriverà a Parigi direttamente dall'isola di Pasqua. Obiettivo della missione, riformare la coscienza dell'umanità. Germania. Non solo fede e trascendenza, ma anche amori e tradimenti nella vita del famoso teologo Karl Barth, scoperto un fitto scambio epistolare con un'infermiera bavarese. Bangladesh. Un regista cinematografico vuole costruire una copia identica del Taj Mahal. Il governo indiano rivendica il copyright. Buon Natale, o forse no, perché come leggiamo sul Telegraph c'è un astronomo australiano che sostiene che Gesù sarebbe nato non a dicembre ma a giugno e quindi bisognerebbe cambiare completamente il nostro calendario e le nostre tradizioni. Sono 2000 anni che ci sbagliamo. Secondo questo astronomo australiano Dave Reneke, scrive il Telegraph, la stella che si accese nel cielo di Betlemme 2000 anni fa sarebbe stata in realtà una congiunzione astrale tra i pianeti Venere e Giove e che avrebbero naturalmente acceso il cielo con una luce particolare che sarebbe apparsa improvvisamente, ma questo sarebbe accaduto non il 25 dicembre bensì il 17 giugno, per cui Gesù sarebbe nato sotto il segno dei gemelli e non sotto quelle del Capricorno. Naturalmente questa notizia fa parte un po' di quel tormentone che tutti gli anni si riaffaccia alla vigilia di Natale. C'è sempre qualcuno che scopre così la vera natura della stella di Natale o dei re magi, insomma, che tenta di riscrivere i Vangeli a modo suo. Per esempio si è detto tante volte che la stella di Natale era una supernova, altri sostenevano che era una cometa. Adesso questo signore dice che era invece una congiunzione tra pianeti e vuole spostare all'indietro la data del Natale. Ma intanto noi salutiamo i nostri ospiti. Questa volta abbiamo due ospiti che salutiamo. Buongiorno, il professor Cacitti. Buongiorno a lei. Remo Cacitti, docente di storia del cristianesimo alla Statale di Milano ed autore con Corrado Augias di Inchiesta sul cristianesimo pubblicato da Mondadori. E salutiamo anche Vittorio Messori. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Messori, giornalista e scrittore, tra i suoi ultimi libri Perché credo, qualche ragione per credere, ma lo conosciamo tutti per il suo famoso bestseller Ipotesi su Gesù. Allora, cosa dobbiamo fare? Spostare il Natale a giugno? Cosa dicono i Vangeli sulla stagione dell'anno in cui Gesù sarebbe nato? Sentiamo cosa dice Messori innanzitutto. Ma innanzitutto, come giornalista, segnalo che esiste la categoria dei serpenti di mare, no? Certo. I mostri di Loch Ness. E c'è sempre un professore di qualche università, possibilmente remota, il quale annuncia di aver fatto appunto la scoperta della vera nascita di Gesù. Direi che della data della vera nascita di Gesù, direi che questa è stata molto discussa, soprattutto per l'arrivo dei magi, questo sì. Ma l'ipotesi più, come dire, che andava per la maggiore era quella di una congiunzione appunto astrale, ma di Giove e Saturno nel cielo dei pesci. Ed era una tesi alla quale deriva anche un nome come Keplero. Però le date non tornano molto perché, come dire, questa congiunzione molto visibile dalla Palestina si sarebbe verificata in anni che non corrispondono a quelli della nascita di Gesù. Ma direi che... Sì, appunto, io dimenticavo di dire che tra l'altro qui si parla del 2 avanti Cristo. No, quindi... semmai appunto quando Dionigi il Piccolo calcolò la possibile data del Natale, dell'inizio appunto dell'era cristiana, pare che sia caduto in un errore, ma abbia sbagliato di 6 anni almeno, non di 2. Sì. Ma direi che fino ad ora andava molto l'ipotesi secondo la quale... nel solstizio di inverno il Natale avrebbe sostituito la festa pagana, certo, del Sol Invictus. Quindi si diceva Gesù non è nato veramente il 25 di dicembre, ma questo è stato per sostituire, come è avvenuto peraltro con altre feste pagane, per sostituire appunto la festa del Sol Invictus. Non ci sarebbe nulla di scandaloso, infatti anche autori cattolici accettavano questo. Non dimentichiamo che il motto di Gesù è: non sono venuto per distruggere ma per completare. E certo, c'è stata tutta una trasmigrazione, no, di miti pagani nel cristianesimo. Sì, un'integrazione, cioè non dimentichiamo che la legge del cattolicesimo, e sottolineo cattolicesimo perché il protestantesimo ha un'altra deriva, è quella dell'et et, cioè quella di inglobare, trasfigurare inglobando. Ma io stesso ho aderito a questa, perché non ci sarebbe nulla di male, però pensavo che fosse così, anche perché io ho passato alcune notti di Natale a Betlemme e devo dire che il freddo a Betlemme è tale, Betlemme è una città di montagna oltre 1000 metri, che effettivamente che i pastori potessero stare all'aperto mi sembrava improponibile, così come appunto i Vangeli dicono, l'angelo sarebbe apparso appunto ai pastori che bivaccavano all'aperto, visto il freddo, ma il freddo davvero gelido, con le montagne, con un vento freddissimo che arriva dalle montagne. Devo quindi dire, è più però, probabile che ci fosse un clima temperato, insomma, e quindi giugno appunto potrebbe essere una buona data. Ma devo dire però che da qualche tempo c'è una novità che viene da una fonte insospettabile, cioè il professor Talmon dell'Università di Gerusalemme, l'Università Ebraica di Gerusalemme, quindi uno studioso israelita, il quale quindi ha una, è così, studiando soprattutto i manoscritti di Qumran, è arrivato a delle conclusioni che davvero lasciano quantomeno perplessi. Cioè quali? Ma dunque, Gesù, allora, l'annunciazione di Gesù, quindi la gravidanza di Maria per opera dello Spirito Santo, secondo la fede, avvenne il 25 di marzo, l'annunciazione del 25 marzo, e Gesù nacque quindi esattamente 9 mesi dopo, cioè il 25 di dicembre. Però lo stesso Vangelo, il Vangelo di Luca, ci informa che esattamente 6 mesi prima era rimasta incinta Elisabetta, la moglie di Zaccaria. Quindi Elisabetta sarebbe rimasta incinta il 25 settembre, Maria il 25 di marzo, la nascita di Giovanni in giugno e Gesù nato in dicembre. Ebbene, questo professore ebraico, il dottor Talmon, studiando i manoscritti di Qumran, è arrivato a stabilire in quali periodi i membri della casta sacerdotale ebraica svolgevano il loro turno nel Tempio. E, secondo il Vangelo di Luca, il marito di Elisabetta, Zaccaria, sì, faceva parte della casta di Abia. La casta di Abia faceva il suo turno sacerdotale proprio esattamente nel periodo in cui, secondo il Vangelo di Luca, sarebbe rimasta incinta sì, Elisabetta. Ecco. Allora, la cosa è un po' complessa, ma mi rendo conto. Comunque, sì, forse non abbiamo nemmeno il tempo di approfondirla. Sapendo quando la gravidanza di Elisabetta è cominciata, sapendo che la gravidanza di Maria è avvenuta 6 mesi dopo, si può ipotizzare, questo lo dice, ripeto, un insospettabile studioso ebraico sì, che si arrivi davvero al 25 dicembre e che quindi la data del 25 dicembre non sia arbitraria. Sì, non sia nata per ragioni pastorali, sì, per sostituire una festa pagana, ma abbia una sua rilevanza storica. Ecco, questo è lo stato della questione. Professor Cacitti, lei come la vede questa disputa sulle date? Ma innanzitutto direi che più che scrutare il cielo bisognerebbe leggere la Bibbia. Ora, la citazione di Matteo, secondo cui i magi sono guidati da una stella, fa ovviamente riferimento a un preciso testo biblico, che sì, è il testo di Numeri, da dove Balaam fa la profezia: una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Questa è chiaramente un'indicazione messianica che viene ripresa nelle posteriori tradizioni giudaiche, mi riferisco soprattutto al testamento di Levi, sì, al testamento di Giuda, due dei più importanti testamenti dei 12 patriarchi, testo certamente di difficile collocazione anche dal punto di vista delle origini, generalmente si pensa sia un testo giudaico poi manipolato, interpolato dai cristiani. Sì. E lo si ritrova poi in Matteo, ma non solo. L'ultimo messia unto in Gerusalemme da Rabbi Akiva è quel Simone Bar Kokhba, che i cristiani affermano significare il figlio della stella. Quindi io credo proprio che non si debba guardare in cielo, anche perché noi non sappiamo assolutamente l'anno in cui è nato Gesù. Le indicazioni dei Vangeli, per quel tanto di, o poco soprattutto di storico che possono avere, nominano Erode come persecutore di Gesù. Erode muore nel 4 avanti. E in altro punto dei Vangeli i farisei contestano Gesù dicendo: ma non hai ancora 50 anni e già ti ritieni superiore a Mosè. Quindi io credo che agli inizi degli anni 30 Gesù avesse sulla quarantina, insomma, ecco. E quindi però i conti non tornano. Ma anche questi calcoli, no, prescindono da un'osservazione capitale, vale a dire che i Vangeli non sono delle fonti storiche. I Vangeli sono un grande commento, una grande attualizzazione della Bibbia ebraica. Ora, quando Matteo dice, parla della stella, evidentemente vuole sostenere questo, che in Gesù si compie la profezia del Primo Testamento, secondo cui la stella è il segno della messianicità. Ecco. Il segno che è nato il re di Israele. Sì, c'è anche una parte di regalità, ecco, ma soprattutto di messianicità, perché poi nel documento di Damasco, quindi in ambito di Qumran, insomma, ecco, la stessa stella sta a indicare l'interprete della legge, quindi ci sono più, quindi sarebbe un'esegeta, ci sono più accezioni, ma direi che quella predominante, sia in Amos che poi in Gioele, eccetera, è quella della stella come segno del Messia. Messia davidico, quindi anche con funzioni regali. Bene, noi ringraziamo il professor Cacitti, ringraziamo Vittorio Messori, continuiamo a confrontarci su questi temi senza paraocchi ideologici e senza anatemi. Buon Natale comunque. Grazie. Grazie a voi, buon Natale. Di passioni pericolose, di amori clandestini, di mogli tradite si parla quotidianamente sui giornali o in TV e sono per lo più storie che riguardano attori, politici o anche comuni cittadini. Ma ai turbamenti amorosi non fu immune nemmeno Karl Barth, uno dei più importanti teologi protestanti del secolo scorso, nonché convinto oppositore di Hitler. Lo testimonia il suo carteggio con Charlotte von Kirschbaum, pubblicato in Svizzera per la Theologischer Verlag di Zurigo. Quella con Charlotte, un'infermiera bavarese educata da Karl alla teologia, è una vera storia d'amore e di produttività intellettuale che riempì la vita del teologo, ma su cui gravò sempre un conflitto lacerante. Karl Barth era sposato, aveva 5 figli e per l'amante costrinse la moglie ad accettare un ménage à trois che durò tutta la vita. La finestra sul cortile. E adesso andiamo in Argentina, sulle pagine del quotidiano Pagina 12, che pubblica ogni domenica un settimanale culturale che si chiama Radar, e proprio nell'ultimo numero del 14 dicembre ha dedicato un lungo servizio a una questione storica, quella della censura sotto i regimi dittatoriali che si sono succeduti al potere in Argentina dal 1930 fino all'ultima dittatura. Questo problema della censura non ha colpito soltanto la letteratura, i libri o i film, ma perfino la musica popolare, perfino il tango, che è stato preso di mira dalle autorità come fonte potenziale di sovversione o di critica al potere. Si secaglia el cantor è il titolo dell'articolo di Juan Pablo Bertassa sul Pagina 12, in cui appunto si fa un po' la storia di tutti i casi più celebri di censura dal 1930 in avanti. In particolare, scrive Bertassa, nel mirino delle autorità c'era il lunfardo, che è un gergo dei delinquenti, un gergo però spesso usato nelle canzoni popolari e che veniva considerato così un linguaggio non dignitoso. Poi c'era la proibizione di manifestazioni folcloristiche di ideologia pericolosa, di canzoni rock che diffondevano delle rappresentazioni false e sbagliate della gioventù, ma addirittura perfino delle canzoni melodiche. Tra le altre, per esempio, la canzone di Cacio Castagna, che era intitolata «Si te agarro con otro te mato», «Se ti trovo con un altro ti ammazzo», che francamente non aveva un particolare significato politico, era semplicemente una canzone di amore e di gelosia. Oppure la canzone di Palito Ortega, che era intitolata «Loco por tu culpa», cioè «Pazzo per colpa tua», anche questo dedicato a una donna infedele che faceva impazzire un innamorato. Quindi, insomma, chiaramente il regime si accaniva anche su obiettivi che, francamente, di politico avevano davvero poco. E forse il motto più simbolico, più significativo del regime dittatoriale è quello di Videla, che diceva «il silenzio è salute». Certo, se tutti quanti tacciono, compresi i cantautori, gli autori di musica rock e perfino gli autori di tango, veramente la libertà proprio è finita in cantina. Ma intanto salutiamo Laura Pariani, buongiorno. Salve a voi tutti. Laura Pariani, scrittrice e collaboratrice del domenicale del Sole 24 Ore, possiamo dire italo-argentina? Vive tra il Lago d'Orta e Buenos Aires. Sì, adesso più o meno sono diventata così, un po' con due patrie. Con due patrie. Ecco, ma che cos'è? Spiegaci un attimo, che cos'è il lunfardo? Allora, il lunfardo è una lingua che nasce all'inizio del Novecento, è la lingua degli immigrati italiani che parlano male lo spagnolo e che, per parlare tra di loro, siccome gli immigrati venivano da tante regioni dell'Italia, inventano una specie di esperanto di dialetti italiani E questa lingua, il lunfardo, che secondo gli studiosi poi lunfardo deriva dalla parola lombardo, viene quindi la lingua della lega in qualche modo sì. Nel tango, uh-huh. Arriva nel tango questa lingua, è la lingua degli immigrati e quindi per le istituzioni è la lingua della malavita, perché gli immigrati sono sempre pericolosi, e alla fine attraverso il tango si diffonde nella lingua parlata, la lingua parlata di tutti, quindi anche della borghesia, attraverso quindi il tango, attraverso i testi, tutte le parole del lunfardo diventano un'acquisizione comune anche delle altre classi. Certo. Sto parlando di termini che vengono dai dialetti e soprattutto ai dialetti dell'Italia del Nord. Ecco, per esempio, Ram diventa Bondi, una cosa buona diventa Piola. Stiamo parlando proprio del piemontese, certo. più forte. Soldi sono la chitarra oppure la ghitta. Per diminutivo, tanto è bulin, una femmina è una percanta, una mina, un budin, l'orologio è il bobo. Questa lingua delle classi basse, degli immigrati, viene proibita a un certo punto negli anni 40 perché è lingua degli italiani immigrati. Addirittura i parolieri che usavano queste parole, che erano le parole del tango e quindi degli ambienti in cui certo. Nasce il tango, e i parolieri vennero costretti a cambiare i testi e i titoli. C'è un tango famoso che si chiamava Gira Gira, che poi vuol dire gira gira. Certo. 1929, uno dei tanghi famosi d'Argentina, bisognava tradurlo in un spagnolo corretto, voleva dire dat vueltas. Però cambiava completamente la metrica, il suono, il ritmo del tango. Non so, c'è un altro tango che si chiama Chiché, che fu costretto a cambiarsi in l'elegante, Sciuscetta che diventa la aristocratica, per queste motivazioni assurde linguistiche, preservare la purezza idiomatica, no? Il parlare corretto spagnolo, sono tutte parole che vengono. E beh, ma è come faceva il fascismo, insomma, no? Come faceva il fascismo in Italia, in cui Courmayeur diventava corte maggiore. Sì. Ecco. Comunque ci sono allora le motivazioni linguistiche, però se si parla di questi due libri che sono usciti, che poi sono quelli di Dario Marchini, ci sono altre motivazioni, ci sono le motivazioni linguistiche che durarono più o meno fine degli anni 30 all'inizio degli anni 50, ma ci sono anche motivazioni politiche, no? Cioè ci sono cantanti impegnati, soprattutto diciamo della musica cosiddetta popolare, Leon Gieco, Mercedes Sosa, che vennero fatti tacere, nel senso che furono proibite le trasmissioni radio. Però ci furono, tu stesso l'hai ricordato, cantanti melodici come Palito Ortega, che certo non brillava per testi impegnati, per impegno, sì. Che si vede censurare quella canzone che si intitolava Pazzo per te, più o meno, che giocava semplicemente sulle parole, invertiva cioè le sillabe delle parole. Noce diventava ceno, luna diventava nallu, come si fa nei giochi dei bambini. Sì, infatti, e quindi una cosa del tutto innocente. L'inizio del lunfardo, all'inizio il lunfardo, la lingua della malavita degli italiani, era rovesciare le sillabe delle parole. Tango diventava gotan. C'è ad esempio un tango famosissimo, il Cambalacce, mm-hmm. che non piaceva a Massera. È un tango degli anni 30 di un autore mm-hmm. famosissimo come Enrique Santos Discepolo. Cambalacce vuol dire qualcosa come bottega di un robivecchi, di un regattiere, che fu censurato per lo scetticismo nei confronti della vita, che diceva che la vita è una porcheria in cui in fondo si tratta allo stesso modo chi si ammazza di lavoro, chi vive alle spalle degli altri. il che non giora non mama, il che non affana è un hill, chi non piange non succhia, chi non ruba un fesso, colpite con una censura più o meno incomprensibile, perché non dava, non so, un'idea della vita bella come vogliono le dittature. L'abbiamo certo. Anche avuto in Italia, non si potevano dare notizie di scandali, di omicidi, di delitti, dubbio. No? Durante ecco. Il fascismo. Bene, noi ringraziamo Laura Pariani, intanto buon Natale, buon anno. Grazie. Anche a voi tutti. Arrivederci. E adesso ci spostiamo in Bangladesh, dove un ricco regista cinematografico, Hasanullah Moni, ha avuto un'idea un po' balzana, quella di costruire in Bangladesh una copia esatta del Taj Mahal, il famoso mausoleo indiano che c'è sulle cartoline di tutto il mondo. Però questa decisione ha già creato un incidente diplomatico tra i due governi, perché gli indiani reclamano il diritto d'autore su questo monumento, e quindi dice: voi non lo potete copiare senza pagarci i diritti. Pare che per creare questa copia il signor Moni abbia importato marmo e granito dall'Italia, diamanti dal Belgio, per aggiungerlo a circa 160 kg di bronzo, e lui spera che in questo modo attrarrà dei turisti in Bangladesh. Certo, se Venezia chiedesse il copyright a Las Vegas, probabilmente le casse del comune si arricchirebbero. E adesso andiamo in Francia, a Parigi, restando in tema di monumenti e di trapianti tra culture diverse. Leggiamo sulle pagine del Figaro che uno dei 980 giganti di pietra dell'isola di Pasqua, un Moai, sarà impiantato per 2 settimane nel 2010 tra l'obelisco di Place de la Concorde e la piramide del Louvre. Pare che i capi Rapa Nui nel 2008 abbiano scoperto che un Moai avrebbe espresso il desiderio di andare a Parigi, ma a far che? A portare un'energia spirituale che dovrebbe cambiare la coscienza dell'umanità. Ma noi temiamo che il Moai, andando a Parigi, potrebbe scoprire anche le gioie dello champagne e del foie gras, e magari potrebbero vederlo una sera alle Folies Bergères. E per oggi è tutto, si richiude la nostra finestra sul cortile. Io ringrazio Laura Marchesi e Daniele Casagrande in redazione, Giorgio Matè in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora. Buon Natale a tutti.